Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, un saluto da Elisio Scarpa, dalle frequenze di 451 intersezioni. Rientriamo come di norma, o almeno insomma ci cerchiamo di essere abbastanza puntuali, il giovedì notte, dalla mezzanotte fino all'una, una e un quarto, una e mezza circa, a seconda di come va la serata. Ovviamente vi ricordo sempre il nostro blog No Blog, il nostro progetto collettivo 451. Andate su 451frammentisonori.noblogs.org, lì troverete tutte le informazioni dei due programmi facenti parte di questo progetto appunto collettivo 451 Frammenti Sonori, che va in onda ogni mercoledì notte sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 23 all'una circa, condotta da Max Macchia, e la trasmissione di stasera, cioè ogni giovedì notte da mezzanotte all'una e mezza circa, condotta da Elisio Scarpa, 451 intersezioni. 451 Frammenti Sonori mercoledì scorso, cioè ieri, non è andato in onda, ma rientrerà la prossima settimana, sempre di mercoledì. Stasera invece ci siamo noi come 451 intersezioni. La settimana scorsa, all'interno del nostro percorso legato alla sperimentazione, alle ricerche sonore, all'avanguardia, abbiamo ricordato, a distanza di 2 anni ormai dalla sua scomparsa, il nostro amico e compagno, nonché conduttore per anni di Radio Città Fujiko, Pier Antonio Pezzinga, con una puntata dedicata ai territori e alla devastazione ambientale, denominata Territori Profitti, anche per ricordare tutta la militanza politica autonoma legata appunto al movimento antagonista che ha portato avanti Pier Antonio per tanti anni, parallelamente alla sua grande passione che era ovviamente la musica, la sperimentazione, che anche in questo senso 451 intersezioni, cercando di mantenere viva la memoria di questo programma che Pier Antonio aveva condotto per anni, cioè Intersezioni, ha pensato appunto di costruire questo nuovo spazio radiofonico 451 Intersezioni, cercando di intersecare, scusate il gioco di parole, il suo programma con il nostro e cercando di mantenere viva la memoria. Abbiamo anche ricordato, lo ricordiamo anche stasera perché si sta avvicinando l'appuntamento del 9 aprile al Teatro Comunale di Forlì, dedicato proprio a Pier Antonio Pezzinga, organizzato dall'Area Sismica, con cui abbiamo sempre continue collaborazioni, contatti e scambi da anni, essendo amici e compagni sia di Pier Antonio che dei sottoscritti. Ha organizzato questo concerto degli Arditi Quartet proprio a Forlì il 9 aprile, sabato 9 aprile alle ore 21. Se volete informazioni per la prevendita, per i biglietti e quant'altro, andate sul sito dell'Area Sismica, che trovate senza grossi problemi, www.areasismica.it, e lì troverete le informazioni per il concerto del 9 aprile. Poi andremo anche a trovare un'altra doppia serata importante di un altro autore eclettico, assurdo e provocatorio italiano, uno dei pochi artisti che mantiene la barra dritta rispetto a contaminazioni col mainstream e diciamo un po' cercando di evitare ogni tipo di marchetta artistica per riuscire a campare, ma entreremo nel merito nel corso della puntata, e speriamo che la prossima settimana, giovedì prossimo, potremo averlo anche in diretta per raccontarci un po' il suo spettacolo che sta per arrivare a Bologna l'8 e il 9 aprile. Proveremo anche a sentire i compagni dell'Area Sismica musica giovedì prossimo a distanza di 2 giorni praticamente dal concerto degli Arditi Quartet per ricordare appunto Pier Antonio la rassegna stessa e avere un contatto diretto con gli organizzatori che a noi fa sempre piacere. Bene, entriamo subito a bomba rispetto la bomba proprio mi sembra un termine assolutamente appropriato tenendo conto purtroppo di quello che sta accadendo in queste settimane, in questi ultimi mesi, tra bombardamenti vari e guerre che si stanno affacciando all'orizzonte, e la puntata riprende una puntata di 3 settimane fa, cioè la puntata dedicata a memorie e oblio. Stasera affronteremo il capitolo 2, ricordiamo ancora la puntata che è stata mandata in onda sempre su 451 intersezioni, era 2015, memorie e oblio, narrazioni acustiche nell'anno 2015, dunque racconteremo album usciti proprio di recentissimo nell'ultimo anno nell'ambito della sperimentazione della ricerca sonora, con una sorta di sottotraccia di titolo narrativo che è legata appunto alla memoria e dunque al ricordo, all'elaborazione sia emotiva che anche storica, bibliografica, ma anche all'oblio, cioè proprio anche a una sorta di antitesi rispetto alla memoria, una sorta di allontanamento, abbandono e dimenticanza rispetto al passato. In questo gioco di contraddittorio di termini giocheremo anche noi a livello sonoro. E apriamo, dopo aver ascoltato nella prima puntata, nel capitolo 1, autori interessanti della nuova generazione come Benoît Poulard e poi Christopher Bissonnette e tanti altri, stasera affronteremo altri autori più o meno sconosciuti e conosciuti. Apriamo subito con Christina Van Zuu, autrice, musicista sicuramente tra le più interessanti degli ultimi anni, degli anni 10, ha iniziato proprio la sua produzione musicale con la Notor Label e poi ha continuato con la Cranky dal 2011, noi abbiamo selezionato proprio l'album uscito nel 2015, Number 3, uscito per la Cranky, autrice che si muove nell'ambito dell'ambient drone, ma anche con alcuni riferimenti abbastanza chiari in termini compositivi ma anche sonori, anche rispetto alla musica contemporanea. Musicista americana nata in Kansas, Missouri, e ci andiamo ad ascoltare proprio un paio di tracce da questo ottimo lavoro uscito proprio alla fine del 2015 per la Cranky, Number 3, Christina Van Zuu, e ovviamente buon ascolto con il secondo capitolo dedicato a 2015, Memorie e Oblio. Thank you. Siamo ritornati in diretta dopo un vero e proprio drone costruito e costituito da questi due progetti. Abbiamo ascoltato due tracce dall'album Number Three di Christina Van Zoo, autrice sicuramente molto interessante della scena americana, della sperimentazione, dell'ambient drone, autrice anche molto poliedrica, interessata anche alla visual art, alle installazioni sonore, oltre che anche a parti sonore connesse anche a musiche per documentari e per film sicuramente sperimentali e particolari. Comunque un artista interessante degli anni 10, ricordo sempre iniziato nel 2011 il suo primo album ufficiale Number One, proprio uscito nel 2011. Abbiamo ascoltato Number Three, uscito per la Crank del 2015, e poi abbiamo mixato invece una scena sicuramente sonora un po' differente, anche se nella parte finale, come avrete sentito, la parte dronica finale si può agganciare molto bene anche in termini di sonorità al lavoro della Van Zoo. Si tratta invece di un progetto, questo che abbiamo ascoltato appena, legato diciamo alle sonorità e al linguaggio folk rock, con forte anche influenze psichedeliche, ambientazioni molto etere, molto rarefatte, molto psichedeliche in questo senso, e si tratta del progetto Mirroring, costituito dalla Jessie Fortino e Liz Harris, entrambe donne in questo progetto, che in realtà è un progetto del 2012, poi ristampato nel 2015. Dunque abbiamo fatto un po' un giochino in questo senso, come progetti usciti e album uscito nel 2015. Questo diciamo è un po' un ibrido, ma la ristampa l'abbiamo voluta inserire anche perché l'album è veramente interessante, con varie coloriture che si muovono nel folk drone, nel folk rock e con forti caratteristiche anche psichedeliche. E dai Mirroring andiamo a trovare il prossimo autore, ma prima di presentare il prossimo autore, spostandoci in realtà relativamente, perché rimaniamo sempre in terra americana, statunitense, ma voglio appunto ricordarvi questo appuntamento, doppio appuntamento a Bologna, anche perché è un amico ed è stato già presente in una vecchia puntata di 451 Frammenti Sonori per un altro spettacolo che ha portato qui a Bologna, in un teatro abbastanza seminascosto nella periferia bolognese, 4 anni fa. Parliamo di Antonio Rezza e Mastrella, il progetto Rezza Mastrella, che porta avanti già da parecchi anni un teatro sperimentale, d'avanguardia, provocatorio, irriverente, e verrà proprio Antonio Rezza con questo nuovo spettacolo intitolato e denominato Anelante al Teatro Duse di Bologna nelle giornate proprio dell'8 e del 9 aprile, venerdì 8 e sabato 9 aprile, dalle ore 21 al Teatro Duse. Ovviamente, se volete avere informazioni più specifiche per acquistare biglietti e quant'altro, andate tranquillamente o sul sito di Rezza Mastrella o ovviamente anche sul sito del Teatro Duse, www.teatrodusebologna.it, per avere informazioni specifiche per i biglietti. Ma sicuramente io lo spettacolo non l'ho ancora visto, ma sicuramente Rezza e Mastrella mantengono sempre livelli molto interessanti, molto sperimentali nel modo di fare teatro, che poi è anche riduttivo chiamarlo teatro. Vedremo se la prossima settimana, nella prossima puntata di 451 Intersezioni, riusciremo a fare una piccola incursione nel mondo di Rezza e Mastrella e fare una piccola intervista, come facemmo poi circa 4-5 anni fa, e vediamo se sarà possibile. Sicuramente potrebbe essere la puntata di giovedì prossimo, essendoci questi due appuntamenti a cui noi di 451 siamo legati, cioè il concerto in ricordo di Pier Antonio sabato 9 aprile a Teatro Comunale di Forlì con gli Arditti String Quartet, e anche ovviamente Rezza e Mastrella, che vanno proprio quasi a coincidere tra l'8 e il 9 di aprile. Vedremo se riusciremo a fare questa doppia intervista. Dunque sarà sicuramente una puntata, almeno per me che sono alla regia e devo fare tutto, sicuramente un po' incasinata, ma cercheremo di farlo, perché mi farebbe piacere sia fare un'incursione radiofonica con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, perché sono sempre deliranti anche a livello radiofonico e mediatico, e ovviamente anche con gli organizzatori e i costruttori di questo progetto unico in Emilia-Romagna, che è il progetto del locale Area Sismica, che ha portato avanti per anni autori straordinari, concerti importantissimi, per parlare di questo evento del 9 aprile a Forlì. Bene, dopo questi momenti di trasmissione comunicativa, ma non sicuramente consigli per gli acquisti, perché siamo contro ogni forma di mercificazione e soprattutto di marchetterie, ma ci teniamo soprattutto a questi due eventi in particolar modo, conoscendo entrambe gli organizzatori o gli artisti in questo caso, parlando di Rezza e Mastrella, andiamo a continuare il nostro percorso nella puntata di stasera 2015, Memorie e Oblio, e andiamo ad ascoltare il prossimo autore. Rimanendo in terra statunitense, andiamo a pescare una formazione costituita a San Francisco, musicista in realtà progetto collettivo, anche se il progetto è nato e portato avanti da Jeffrey Cantu Ledesma, questo è l'autore. Anche lui ha cominciato a far uscire i suoi primi album, a produrre i suoi primi album nel 2007-2008, dunque piuttosto recenti. Ha portato avanti con una certa frequenza le sue produzioni, arrivando a far uscire in questi 8 anni ben 9 album, e addirittura no, di più, addirittura 11 album. È uscito proprio un ultimissimo lavoro proprio adesso, ma noi abbiamo scelto l'ultimo album del 2015, rimanendo ovviamente sempre dentro il discorso della puntata di stasera. Parliamo di Here with Free 13 Moons, album uscito per la Mexican Summer. Questo lavoro si muove dentro un ambient drone che si lega benissimo ovviamente anche alla tematica di stasera, alla memoria, molto evocativo. E a questo punto, dopo aver ascoltato le atmosfere folk rock drone dei Mirroring, andiamo invece a calarci dentro un'altra sonorità, quella di Jeffrey Cantu Ledesma, da A Here with 13 Moons. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta, anche aspetti rumoristi, noise molto marcati in tutto il lavoro che abbiamo ascoltato di Jeffrey Cantù Ledesma, una sorta di distorsione sonora portata allo estremo, soprattutto nella parte finale dove l'ambient drone viene sempre più granulato, reso indefinito con un suono sempre portato di più in saturazione per creare appunto l'effetto noise, l'effetto rumorista che crea sopra il suono ambientale, il flusso dronico, un ulteriore universo sonoro, un'ulteriore composizione, un po' la forza del rumorismo, del noise, soprattutto elettronico degli ultimi 15 anni, quella di portare al massimo la saturazione non soltanto del suono elettronico ma anche del suono elettroacustico per distorcerlo e creare frequenze, addirittura composizioni e forme melodiche e anche ritmiche che si vengono a creare utilizzando la distorsione e la saturazione. In questo devo dire il progetto che abbiamo appena ascoltato, Jeffrey Cantù Ledesma, riesce a creare appunto quel muro sonoro che crea quasi vari mondi compositivi e acustici nella stessa composizione. Da Jeffrey Cantù Ledesma ricordiamo ancora l'album uscito per l'etichetta Mexican Summer e IR with 13 Moons, e ora ci spostiamo dalle terre statunitense invece alla madre patria, potremmo dire così per molti aspetti, cioè la Gran Bretagna. Andiamo a trovare un autore che invece si è mosso nella sua esperienza musicale già da svariati anni nell'ambito della dance, ma soprattutto nell'ambito dei DJ set, dell'elettronica appunto connessa ai DJ set, ma è un autore che si è anche lanciato verso sperimentazioni sonore elettroniche, soprattutto verso remix anche di autori importanti, non soltanto in ambito elettronico, ma ha remixato e lavorato dei brani anche di musicisti nell'ambito dell'avanguardia musicale anche del passato, e ha creato questo album Late Night Tales, che racconta un po' e remixa vari autori che lui stesso ha seguito e che ama in particolar modo, gran parte nell'ambito della musica dance, seppur colta, qualcuno l'ha definita intelligent techno, ma anche molta house, Latfield e musiche legate appunto alla dance e all'elettronica, ma anche al folk, al rock, a una certa musica elettronica sperimentale. In questo senso è andato John Hopkins, perché non abbiamo ancora nominato l'autore. John Hopkins, nato nel 1979 in Gran Bretagna, ha elaborato un bellissimo lavoro di remix di Nils Fram Moore, altro autore che si muove nella musica elettronica anche sperimentale, perché Nils Fram è sulla scena musicale elettronica già da alcuni anni e lavora su un piano sonoro che spazia veramente in varie direzioni. Gli ultimi album sono usciti proprio nel 2015-2016, ben 4 addirittura album usciti per Nils Fram. È un musicista che comunque si muove nell'ambito della musica contemporanea, nelle musiche da film, e anche ha sperimentato comunque anche lo stesso Nils Fram delle elaborazioni elettroniche sicuramente molto interessanti. Ecco, Hopkins ha quell'apertura che molti pensano che nei DJ set, nella dance music, non ci sia, ma in realtà è assolutamente falso, di andare a ricostituire e a ridisegnare sonorità e composizioni di autori tra virgolette della musica colta, sperimentale, d'avanguardia. Ma John Hopkins lavora in questo senso sempre comunque nell'ambito della sperimentazione, dell'avanguardia stessa, perché molta musica dance, seppur esiste questo luogo comune in cui la dance viene sempre paragonata, quasi sempre, da critici appassionati e anche musicisti nell'essere appunto etichettata in musica commerciale, in musica per ballare, in realtà il concetto è molto più aperto. Ci sono molti autori che hanno lavorato nella techno, nell'house, nel Latfield, in moltissimi altri campi musicali, nella trip hop, ma non solo, insomma, ci sono stati vari progetti già dal passato, da un estremo passato della musica dance, che ha portato avanti invece elaborazioni sonore, costruzioni e anche invenzioni assolutamente sperimentali che si collocano dentro le musiche d'avanguardia, le musiche di ricerca. Non a caso spesso 451, sia intersezioni che frammenti sonori, ha portato avanti delle puntate intere dedicate a una certa dance. Bene, andiamoci ad ascoltare dunque la rivisitazione di John Hopkins di questo splendido lavoro di Nils Frahm, e a questo punto ci ricaliamo dentro l'atmosfera di 2015, Memorie e Oblio. You're listening to Late Night Tales.